nuvole nere di alberi, solitaria agli angoli dei campi. Quando la strada è più buia, sopra rami spogli ci troverai. Manichini animati, da fili invisibili sotto ai fianchi, che al calare del sole lasciano l'umana identità. Ma da te girovago perso in questi monti, mostrerò come la vita si gira quando inganna la domanda che ci condanna. Dannato sempre sarò, ma dimmi perché a questo mutante intreccio di rami e di idee. Dannato sono e sarò, ma dimmi per chi è la notte, forse per te. Non portarci rancori per questa domanda da dentro fuori. Parla con i corvi, spazio e tempo in alto si perdono. Normalità evasa sopra questo noce che chiamo casa. Notte dopo notte l'orizzonte è perso tra nebbia e luna. Ma perché gira vuoto la mente solitaria e sentirai rami scuri dentro i quali anneghi. Questa è la notte degli streghi. Se per me